e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Risto Radio Convento, di nuovo buonasera da Master Nick, di nuovo in compagnia di tanti ospiti, di nuovo in compagnia di tutti i festeggiati di questo sabato 4 agosto 2018 e come sapete noi diamo spazio a loro per dirci un po' come sta andando la serata e perché festeggiano con noi. È il momento di un'altra protagonista, di un'altra fantastica sposa. Intanto loro stanno litigando per chi parla per prima, perché c'è emozione nell'aria e quindi vogliono tutte rubarsi il posto davanti al microfono, ma siccome questa è una democrazia e decido io, facciamo parlare per prima la festeggiata, che è lei. La presentiamo, buonasera. Ciao, benissimo. Allora, ti spiego una cosa che ogni tanto spieghiamo. Ci sono delle persone nel mondo che si chiamano scienziati, che inventano delle cose. Ce n'è uno che ha inventato un microfono. Il microfono amplifica la voce, quindi se tu stai a 48 metri dal microfono non si amplifica nulla. Diciamo che il microfono è un po' come un cono gelato. Più ti avvicini, più lo mangi. Ti piace il gelato? Ah sì, tanto. Mi piace che hanno questa lingua dei segni incomprensibile. Torniamo a lei, dai, come ti chiami? La regola vale sempre, quella di prima. Oh, ciao. Avete portato una fattoria? Avete portato una fattoria nello studio? In provincia di Bergamo. No, ma questa era la traduttrice, perché adesso c'è la traduzione simultanea. Sì, lo so che è la zia, però insomma è maggiorenne, quindi penso che abbia diritto di parola, o forse l'ha perso, l'ha conquistato nel tempo. Si vergogna. Perché sta veramente, cioè voi non vedrete mai, ma io sto vedendo, sta chiedendo suggerimenti alle amiche per quello che deve dire e deve solo dire il suo nome, quindi figura. Oh, ce l'ha fatta. Nicole, va bene, magari la prendo un po' più con calma. 200 euro dici da dove vieni. Basta, dicelo. Vabbè. Sei entusiasta, vedi, sul 200 euro sei entusiasmata. Certo che questa intervista, se andiamo avanti così, costa un fracasso di soldi. Allora dai, Nicole da Bergamo, benvenuta di nuovo. E cosa festeggi qui con noi stasera? Radio Annubia. E con te continua a chiedere suggerimenti a tutte. Non sappiamo se l'abbiano portata qui per quale... No, che imbarazzante, figurati. Tanto la bionda continua a spegnere luci su luci e la ringraziamo per questo. Allora dai, Nicole da Bergamo, il tuo dio annubilato, chi è il fortunato? Davide. Questo lo sa. Questo pensato, l'ha detto, beh, con una certa sicurezza. E quando vi sposerete? Il 28 settembre. 28 settembre, bella data. Così, era per dire una cosa intelligente che poi intelligente non è. Allora Nicole, io mi permetto di entrare nella tua vita privata, nel senso che ho visto che hai tanti bellissimi tatuaggi. Ti piacciono? È una cosa a cui sei molto legata? Vuoi dirci un po' il significato, cosa rappresentano? Al di là di quello che rappresenta un cuore, che immagino sia per me e per gli altri, quello lasciamolo a noi privatamente, lo spiegheremo poi. Non è pronta neanche sui suoi tatuaggi. Ma c'eri quando ti hanno fatto i tatuaggi o eri da un'altra parte? No, una cosa imbarazzatissima, non ce la posso fare. Ma figurati, no, perché dai, dimmi un po'. Ma perché mi piace, dopo coinvolgiamo loro, però è la tua festa, è giusto che coinvolgiamo. Niente. Non coinvolgo nessuno, ho fatto niente. Vai, tranquilla. Hai ragione, scusa, perché dovete sapere che Nicole ha guardato troppe volte il pesciolino Nemo e quindi ha una memoria a breve termine tra i 4 e i 5 secondi. Se le parli con 6 secondi dopo, lei già non ricorda più niente. È troppo bravo, non ce la faccio. No, ma che è troppo bravo? Guarda, tu devi seguire me. Io sono il tuo Mitch Buchanan e sono il tuo guarda spiaggia. Esatto. Ti ho solo detto che mi piacevano i tuoi tatuaggi, volevo capire cosa significavano e quanti ne hai. Oddio, quanti? Se non lo sai. 12. 12, bene, che sono tanti, ma tutti piccoli vedo però. Abbastanza piccoli. Beh, quelli visibili mi sembrano piccolini. Ma hanno tutti significato? Sì. Tipo, fammi un riassunto velocissimo. Insieme, con la tua mamma. Bellissimo, cosa rappresenta? Ah, ve lo descrivo io. Praticamente, cos'è, una panchina o un'altalena? Un'altalena. È un'altalena in cui ci sono due ragazze di spalle, che immagino siate voi, ma non vorrei svelare il finale. E abbracciate, bellissimo, si chiama Eternamente Unite. Bello, mi piace. è molto artistico, ma tutti sono artistici, li intravedo da qui e è per quello che sono rimasto colpito. Basta, allora facciamo così, altra domanda molto semplice, vedo che siete in quattro questa serata e mi dici chi ti accompagna, poi le facciamo salutare? La testimone, la zia e l'altra amica. Ok, ok, vai vai, allora vi facciamo parlare velocemente, vabbè, un saluto anche solo come vi chiamate, dite la vostra identità. Partiamo dalla testimone. Vai, testimone, testimone. Uno dei due, sceglilo tu. Funzionano uguali. Come ti chiami? Mi chiamo Silvia. Silvia, ma la gente non lo sa, noi. Loro non vi sentono, vi vedono e basta. Allora, Silvia, ok? E sei la testimone di Nicole perché siete amiche, colleghe, fratelle, sorella? Amiche. Penso forse 10-11 anni anche. 11 anni, tantissimo. Vuoi descriverci velocemente Nicole con pochissime parole? A parte logorroica, perché mi sa che direi che la migliore è logorroica. Oltre a logorroica. Ah, ok, no, ma ho sbagliato, non so perché. Magari un pochino poco estroversa, un pochino timida ogni tanto. Sì. Però vi piace così. No, è sempre la migliore amica che puoi avere. Bello, bello. Vai, vai con la zia. Zia? All'anagrafe? Mi chiamo Michela, sono la zia acquisita di Nicola. In effetti non so, cioè ho detto zia acquisita. Zia acquisita, io giusto. Devo controllare questi tre ragazzi stasera che facciano giudizio. Brava, mi piace. Ci vuole, esatto, nel gruppo ci vuole sempre la persona che non perde la testa, che rimane integra. Vabbè, però comunque rimane integra, l'importante è rimanere integra. Finiamo con Edison, detta lampadina perché continua, spegne, accende luci, sempre comunque, biondissima, vai! Ciao, sono Stefania. In teoria quella che guida. In teoria quella che guida, bene, bene. Bene, ricordatele dove sono. Ricordatele dove sono i fari della macchina, perché sennò è un problema di notte. Vai, tu sei invece? Stefania. E dico per Nicole? Altrettanti anni come la testimone. 8-9 anni anche noi. Un bel po'. Bene, bene, mi piace questo legame. Ah, l'amica è un po' pazza, anche questa ci vuole nel gruppo. Yin e Yang, ci vuole nel gruppo. Va bene ragazzi, allora grazie mille di essere state con noi, di esservi raccontati un po'. Grazie. Sul finale la Nicole si accende sul finale. Facciamo ancora tantissimi auguri e tantissimo divertimento alla nostra Nicole e di nuovo buona serata qui al convento. Ciao! Ciao! Ciao!